Ok, Massimo. Sì. E io. Ho capito che era solamente un viaggio, spinto da un calcio, da un gancio, da un lancio pesante come un masso. C'è chi mi dice cosa fare, non lo faccio. Ascoltare a chi non piaccio non è da me, merda man. Perso nel buio tipo sentinel, senti nel mio cuore, stringo i denti tipo rettile. Non mi guardo mai le spalle per difenderle. C'è chi lo fa per me, chi l'ha già fatto è pronto a prenderle. C'è chi mi dice che mi resterà vicino nel cammino. C'ho la testa sul cuscino che dimentica precedenza chi ha la tessera dell'handicap. E mendica due blow per la sua rendita, si mette in vendita. C'è chi chiede solo soldi, non dice manco ciao, ma ti chiede se ti svolti. Dici che hai problemi eppure troppi, non resta che contarli e fare i conti. Ti chiedi con chi fotti, ti scocchi. Chi mi dice come, chi mi chiede perché, chi mi dice frate, clap your hands in the head. Voglio sapere che fai, che dai, che sai. Tight rhymes in the same night. Chi mi dice come, chi mi chiede perché, chi mi dice frate, clap your hands in the head. Voglio sapere che fai, che dai, che sai. Tight rhymes in the same night. Non faccio commedie, no, mi solleverò. Mi proietterò, ti prometterò che sarò vicino a te quando il sole sorge. Che sarò con te per ascoltare in cuffia il suono delle onde. Sarò da solo nella notte che risponde. A cercare le tue orme, a trovare nuove forme. Farmene una ragione che confonde quello che c'è attorno a questa coltre. Inoltre, fotto chi mi dice che non rendo, chi dice che pretendo, chi mi bene dice quando prendo il microfono e lo stendo. E poi mi chiede scusa chi mi dice ho la divisa abusa. Si troverà all'inferno con la vita già conclusa. Un'altra vittima chiusa nel girone di chi l'ha delusa. Voglio cominciare dalla fine ed arrivare alla partenza. Sopra la latenza è un esame di coscienza. Chi mi dice come, chi mi chiede perché, chi mi dice frate, clap your hands in the head. Voglio sapere che fai, che dai, che sai. Tight rhymes in the same night. Chi mi dice come, chi mi chiede perché, chi mi dice frate, clap your hands in the head. Voglio sapere che fai, che dai, che sai. Tight rhymes in the same night.